Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue. La stampa, il futuro è quotidiano. Radio 3, lezioni di musica. Alessandro Solbiati. Der Doppelgänger di Franz Schubert. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e vorrei continuare con voi un viaggio meraviglioso attraverso il leader di Franz Schubert, questo meraviglioso mondo lasciato per sempre a noi. Oggi siamo di fronte a, può essere, la vetta assoluta della leaderistica schubertiana. Non bisogna mai fare graduatorie, forse è sciocco, però certo, siamo a un punto di immensa altezza. Mi riferisco al lead intitolato Der Doppelgänger, il sosia, il doppio, che è una figura che attraversa molta storia della psiche a partire dall'Ottocento in avanti. Allora, cominciamo dalla data. Siamo nell'agosto 1828, cioè Franz Schubert scrive questo lead 3 mesi soltanto prima della propria morte. Franz Schubert era malato e comunque gli ultimi 2 anni di vita sono quelli dove la sua produzione raggiunge zone irraggiungibili dell'altezza musicale. Der Doppelgänger fa parte del terzo dei 3 cicli di Lieder di Schubert. Il primo era di Schönemüllen, nella Bella Mugnaia, il secondo Winterreise, soltanto dell'anno precedente, 1827, il terzo Schwanengesang, Canto del Cigno, è in realtà un ciclo non ciclo, cioè, mi spiego, mentre i primi 2 hanno un preciso arco narrativo globale, Schwanengesang è una raccolta di Lieder, tant'è vero che all'interno di questa raccolta vi sono questi 6 Lieder sul testo di Heinrich Heine, quindi di nuovo un incontro con un poeta di grande importanza e di grande profondità, e questi 6 Lieder sono sicuramente la vetta dello Schwanengesang. E di questi 6 Lieder penso sia facile dire che il punto più elevato è esattamente Der Doppelgänger. Adesso vi leggerò subito il testo. Parlavo nella precedente puntata della centralità del rapporto testo-musica in Schubert, del fatto che è lui stesso di volta in volta a scegliere un nesso su cui puntare. Beh, in questo caso Schubert non ha scampo. Questo testo ha un centro inevitabile e a cui Schubert dà grande importanza, ma in questo caso il testo è fortissimo in sé. Attenzione, è un testo ai limiti, o forse oltre i limiti dell'espressionismo. Potrebbe essere stato scritto anche 80 anni dopo. Prima strofa, anzi no, non dividerò in strofe, poi ne parliamo. Tace la notte, riposano le strade, in questa casa abitava il mio tesoro. Ha lasciato da molto la città, ma la casa è sempre nello stesso posto. C'è anche una persona e guarda fisso in alto e si torce le mani per la forza del dolore. Inorridisco vedendo il suo volto. La luna mi mostra la mia stessa figura. Tu, sosia, tu, pallido amico, perché irridi la mia pena d'amore che mi ha afflitto in questo posto per tante notti nel tempo passato? Va da sé che è un testo da brivido. Questo punto di domanda finale, questo discorso diretto a qualcuno che è evidentemente una proiezione psichica, evidentemente è così, e quindi siamo nel delirio, e finire con una domanda e lasciare aperto il tutto è effettivamente, come dire, non lo so, non posso nemmeno concludere la frase, forse mi emoziona personalmente molto mentre parlo. E tra l'altro, musicalmente, la reazione di Schubert è ai livelli del testo, e crea una sorta di ponte, lo stesso ponte che c'è nel testo, tra passato e futuro. Adesso ascoltiamo le prime 12 battute e poi parliamo di questo rapporto con passato e futuro. Nacht. Commentiamo questo inizio straordinario. Innanzitutto c'è questo si minore, questo vuoto, questo accordo di si minore iniziale senza terze, quindi vuoto, con un bel pianissimo. Tra l'altro si minore nella tonalità che ho davanti a me in questo momento. Si sa che i cantanti spostano i leader nella tonalità che è più consona alla loro voce, quindi ci sarà una dicotomia tra quello che suona e quello che si ascolterà nell'ascolto. Se pensate alle note intorno, c'è un pedale interno che è questo fa diesis ossessivo, 4 volte, ma intorno c'è questo. La linea poi continua e di questo parleremo dopo. Adesso segnalo soltanto che il punto d'arrivo di questa strofa, perché non dico subito come è fatto il lead, è questo accordo, che è una dominante di si minore, e tutto il lead sarà basato su una trasformazione genetica, dovrei dire, di questo accordo, che è un accordo, ripeto, di fa diesis maggiore come dominante di si minore, verso una somiglianza sempre più forte con un accordo di do maggiore. Qui faccio solo notare che la chiusa ha l'unico elemento luminoso, questa voce più acuta del pianoforte. Viene, e questo è un piccolo madrigalismo, subito dopo che è stato detto qui abitava il mio tesoro, ed è l'unico brandello di luce in questo lead di notte, questo lead notturno in cui la luna stessa che c'è è una luna livida e non è una luna romantica. Perché parlavo di rapporto col passato? Non vi dico che cos'è, facciamo un ascolto e poi vi dirò che cos'è. La meravigliosa interpretazione pianistica di Richter è l'inizio della quarta fuga in do diesis minore del primo libro del Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. La fuga sicuramente più intensa, più profonda, più non so quali aggettivi usare esattamente, del Clavicembalo ben temperato, e tutto gira attorno a questo soggetto, tonica, sensibile, salto di quarta diminuita e ripiegamento. Il che determina una circolarità continua e ossessiva. È esattamente la stessa sequenza che usa Schubert. Non sto dicendo che Schubert ha copiato Bach, sto dicendo che certe cellule emotiviche, tematiche, attraversano trasversalmente la storia della musica e si piegano a significati diversi. In Bach diviene una fuga meravigliosa, in Schubert diventa l'ossessione. Perché dico l'ossessione? Come è costruito questo lead? Questo lead è costruito come una passacaglia. L'elemento che abbiamo sentito prima, le prime 12 battute, in cui la voce quasi come un narratore, infatti quasi un recitativo, molto basato su una nota sola. C'è quasi una nota sola, questo fa diesis che è la dominante, il tema gli ruota intorno. Gli ruota intorno avendo questo perno fisso, ossessivo, perché da qui partirà questo viaggio notturno con un incontro di un se stesso che irride lui stesso. Immagine veramente terribile. Quale modo migliore per l'utilizzo della forma passacaglia? La passacaglia è una forma a variazioni basata su un basso. Questo è nella forma originaria del XVII secolo, ma piegata alle istanze espressive di questo lead, la ripetizione di un basso, la ripetizione esatta della stessa strofa, non dal punto di vista vocale ma dal punto di vista pianistico, dà questo senso di incedere, isocrono, grave, attorno a quella cellula detta prima che poi continua, continuamente per quattro strofe del testo. E perché ho parlato di ponte con il futuro? Io ricordo che il grande compositore Gheorghi Kurtag, a volte insegnando musica da camera, di fronte a certi passaggi, ad esempio molto, molto cromatici di Schumann, più volte gli ho sentito dire: qui Schumann ha preso da Mahler, che è evidentemente un falso storico, no? Mahler è nato 4 anni dopo la morte di Schumann. Ma perché viene detto? Viene detto per sottolineare la capacità profetica di alcuni compositori. Bene, se andiamo avanti di circa 80 anni, passiamo al 1913, arriviamo al Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, incontriamo il più agghiacciante dei testi da lui utilizzati, quello dell'ottavo numero del Pierrot Lunaire, che si intitola Nacht, ma tra parentesi c'è scritto Passacaglia. E il testo parla atrocemente di nere farfalle gigantesche che coprono il sole e di mostri che a poco calano dal cielo sulle spalle degli uomini. E in quel caso Schoenberg sente la necessità di avere un elemento motivico, stiamo parlando di musica quasi dodecafonica, che è questo, che è quasi il moto contrario delle prime note di Bach o di Schubert. Siamo ai confini della dodecafonia, ma evidentemente quel Bach diventato Schubert con questo clima di notte e stravolto diventa ulteriormente stravolto nel vero espressionismo schoenbergiano, nella Passacaglia, di cui ascoltiamo adesso l'inizio. '75 anni dividono Der Doppelgänger dal Pierrot Lunaire, ma evidentemente il profetismo schubertiano o le radici schoenbergiane, vedetela come volete, sempre a Vienna siamo, sono in chiara relazione l'una con l'altra. Allora, la divisione formale del testo. Schubert divide il testo in, come dire, quattro coppie di versi e separa l'ultima strofa, che è di quattro versi. In realtà il testo è di tre strofe di quattro versi ciascuno. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni coppia di versi fa una ripetizione della parte pianistica di Passacaglia. Per questo la definisco io Passacaglia. Lui non ha scritto questo, ma è vistoso che sia così, perché è una ripetizione ostinata di questo segmento pianistico su cui, ripeto, la voce cambia e ha degli slanci. La seconda coppia di versi, che è ha lasciato da molto la città ma la casa è sempre nello stesso posto, vede, adesso la vediamo tutta, la parte pianistica sempre allo stesso modo, in questo così. Sto andando più veloce, naturalmente. L'accordo a cui lo devo prima rimane ancora uguale stavolta, e la piccola coda acuta del pianoforte rimane uguale, anche se non è più motivata dal rapporto con il tesoro, la fidanzata. Si allude al fatto che la casa è rimasta allo stesso posto, ma ancora non è cambiato nulla. E si riparte. La seconda volta in realtà anche la voce era stata molto simile, pressoché identica alla prima strofa. Adesso la voce cambia perché diventa... Cosa succede? Succede che improvvisamente ci si è accorti di un'altra presenza. La prima strofa di quattro versi, cioè la doppia coppia di Passacaglia, in fondo impostava la situazione. In questa terza ripetizione viene detto c'è anche una persona che guarda fisso in alto e si torce le mani per la forza del dolore. E la dinamica, a proposito di espressionismo, ha in questo caso una espansione straordinaria, cioè si parte dal pianissimo dell'inizio e si arriva alle tre F di questo accordo, dove si parla del fatto che si torce le mani per la forza del dolore. Sulle tre F c'è la parola dolore. E l'accordo di cui parlavo prima incomincia a migrare, a cambiare, è diventato così. Prima era così, una normale settima minore, adesso è così. Nell'armonia ottocentesca questa deformazione, questo tritono, do fa diesi, questo do naturale, questo accordo è già diventato un po' do maggiore, il do e il mi sono di do maggiore. È una settima minore con la quinta diminuita, si direbbe tecnicamente, ma è un accordo anomalo, non fa parte della tradizione, è il torcersi le mani per cui l'accordo si torce. Parte poi la quarta strofa in cui si tocca il punto più mostruoso. Inorridisco vedendo il suo volto, la luna mi mostra la mia stessa figura, lo stesso fortissimo sullo stesso accordo, e l'accordo successivo, il solito, si deforma ancora di più. Non ci aspetteremo questo accordo, tecnicamente è complesso dirvi che cos'è, un accordo di sesta eccedente, ma è diventato che tutte le tre note di un accordo di do maggiore sono contenute. Sembra non essere più in si minore, per poi ripartire invece ancora così con la strofa successiva. Ma che cosa succede nella strofa successiva, che è la quinta? La quinta è quella decisiva. Schubert adora passare in discorso diretto nei suoi leader. Voi direte, i testi non sono suoi. Adora scegliere testi in cui a un certo punto si passi in discorso diretto. Fino adesso era c'è anche una persona, guarda fisso in alto, eccetera, eccetera. Adesso è tu. Sosia, tu pallido amico. In questi casi che cosa succede? Succede che la voce non è più narratore del testo, diventa il personaggio, diventa in pratica una scena. Ve lo vedete il personaggio che nella notte dice tu, Sosia. E qui c'è il punto musicalmente più straordinario e spaventoso di questo lead. Fino adesso la sua escursione è stata la ripetizione ostinata continua di questo tema di Passacaglia, la deformazione progressiva di un accordo e la deformazione della dinamica che si slancia per due volte nella terza e quarta strofa fino alle tre F, fino a questo iper fortissimo sull'accordo deformato. Adesso si abbandona il tema della Passacaglia e c'è un cromatismo do naturale, do diesis, re naturale, e improvvisamente da questo accordo di si minore esce un accordo lontanissimo, un accordo di re diesis minore. È un passaggio diretto, perno sempre il fa diesis ostinato, quella dominante della voce, qui la voce ha fatto eccetera. Questo passaggio violentissimo avviene su un verbo, sul verbo irridi. Tu irridi il mio dolore. Dopodiché lì si spegne, ho ancora un empito e anzi ancora il culmine, le tre F arriveranno su questa quarta e sesta di si minore, quando parla del dolore che lo ha affitto per tante notti, poi si spegne. E nello spegnersi, nella coda pianistica, improvvisamente, finalmente e inaspettatamente, arriva quell'accordo di do maggiore pulito che sarebbe un po' inspiegabile. Perché nella coda pianistica, che sembra ritornare all'inizio del pezzo, improvvisamente adesso succede questo. È un accordo di do maggiore. La cellula non è più, ma è diventata... Perché? Non lo sappiamo. Sappiamo che a si minore non ci torna più, chiude fuori tono su un accordo di Si maggiore. Allora, quella quinta strofa con quel grido, il ridi, con quel passaggio, con quel cromatismo, sono avanti di 80 anni nella musica, potrebbe essere Ugo Wolf, e credo che lo spessore, la profondità, il dramma, la tragedia di questo testo sia interpretata come più altamente non si poteva fare. Si capisce che parlo un po' per passione e credo che sia il caso di passare all'ascolto integrale del lead. Noch das Haus auf dem selben Platz. Da steht auch ein Mensch. Graust es, wenn ich sein Antlitz sehe, der Mond zeigt mir eine Doppelgänger, du bleicher Geselle, was hättest du nach mein liebes Leid, das mich gequält auf dieser Stelle? So spero di avervi fornito un viaggio bello nel Doppelgänger, questo colpo di genio di Franz Schubert. Il nostro viaggio continuerà ancora le prossime settimane sul Schubertiano. Grazie, buona giornata.